dopo aver visto stamane i giornali nazionali non dedicare neanche l'intera copertina a una delle più grandi leggende dell'NBA, ci siete stati almeno voi a dedicare il vostro tempo. Vi ringrazio. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Buongiorno Pierluigi Pardo. Buongiorno, come buongiorno. Va? Molto bene, oggi posso tornare, ma con grande piacere peraltro, a parlare di te soltanto di calcio, che quel calcio che tanto ossessiona una certa Italia. Ieri abbiamo parlato di altro, alcuni messaggi ricevuti mi hanno fatto dubitare dell'applicabilità della teoria dell'evoluzione della specie nei confronti di alcuni, ma questa è un'altra storia. Ti faccio i complimenti piuttosto per Tiki Taka di ieri sera, perché non era facile ed hai dato il giusto peso a un fatto più grande di tutte le partite di calcio del mondo intero, ad un fatto all'interno di un programma calcistico, è stato bellissimo. Quindi non lo dico per ragioni di bottega di cui non me ne frega niente. Ti ma ringrazio, è chiaro, perché poi sai, c'è stata molta polemica sui giornali. È chiaro che ognuno ha un suo punto di partenza, no? Tiki Taka è un programma di calcio, ha una redazione calcistica. Io per dirti, non ti nascondo, ieri ho provato a chiamare anche Flavio Tranquillo, che però aveva il suo speciale giustamente su Sky, lo ringrazio comunque. Però voglio dirti, è chiaro che ognuno, poi c'è un discorso di diritti, ovviamente i diritti dell'NBA non ce li ha media senza non in minima parte, quindi è chiaro che insomma, ognuno fa quello che no, può ma fare, è evidente, però è evidente. Credo che siamo riusciti a fare nel nostro Tiki Short e che fosse doveroso fare tutta una parte dedicata a Kobe perché per tutte le cose che ci siamo detti ieri, e sono contento, chiaro, ha fatto anche un buon ascolto. Poi voglio dire, insomma, in queste circostanze qui fare 0,20, 0,30 in più o in meno non cambia proprio la vita, è importante raccontare cose belle e la bellezza di un uomo straordinario ovviamente nella tragedia, nel dolore che colpisce tutti, che ha colpito tutto il mondo, però insomma celebrarlo e farlo vivere. No, ma infatti nel rispetto della sensibilità dei ruoli professionali che abbiamo. Peraltro ieri sera in Tiki Taka, complimenti per come è stato prodotto, ma anche per quello che c'era dentro, perché l'intervista di cui già sapevo più o meno tutto, perché insomma lavoriamo insieme ogni giorno da oltre 7 anni. Ebbene, quell'intervista a Viere Lukaku è stata una meraviglia. Per chi l'avesse persa, vi consiglio di ripescarla da qualche parte, non so dove, ma si trova. E nel frattempo ve ne faccio sentire un estratto. Io invece a me piaceva perché io mi levavo la maglia, perché io ero anche single tante volte, quindi mi levavo la maglia e vedevo gli addominali. Poi dopo andavo allo spogliatoio e avevo 200 messaggi. Quindi per questo mi dico, perché ti levi sempre la maglia? Perché comunque si lavora anche con dei... Sì, in questo tempo non era cartellino giallo per questo, adesso sì. Ma non era cartellino giallo perché aveva gli addominali, se mi toglievo la maglia io era cartellino rosso. No, come nasce l'inchino? I tifosi che vengono mi dà un amore molto speciale, per questo ringraziare. Cioè, sai. Beh, ovviamente abbiamo scelto una parte cazzara come nel nostro stile, però c'era molto molto altro. Cosa isoleresti di questa intervista? Cosa, diciamo così, ti ha sorpreso? Se c'è qualcosa che ti ha sorpreso? Due cose, una se vuoi più giornalistica, l'altra più complessiva. Quella giornalistica è la scelta di Conte, cioè lui nell'intervista ci racconta che incontra Conte la prima volta in un amichevole fra Belgio e Italia. E gli piaceva molto, era molto attratto da questo tipo di allenatore, si parlano e in qualche modo si promettono che avrebbero lavorato insieme. Quindi la scelta di Lukaku è una scelta sicuramente per il calcio italiano, sicuramente per l'Inter che lo ha cercato con grande ostinazione. Sappiamo che c'è stato anche un blitz estivo da parte della Juve, il giocatore ovviamente piaceva a tanti, però l'Inter è quella che ci ha messo più anima e poi sicuramente la voglia di lavorare con questo allenatore. Quindi in qualche modo questa intervista spiega quello che avevamo già immaginato, cioè che ci fosse una sorta di corrispondenza di amorosi sensi tra allenatore e giocatore. La seconda cosa, che se vuoi è più complessiva, è il carattere di questo ragazzo, ma insomma già avevo intuito, un ragazzo sicuramente molto, molto semplice, molto umile, molto allegro, che si diverte nel senso positivo del termine. Ci sono anche delle piccole cose per esempio banalmente gli ho mandato un messaggio per ringraziarlo, mi ha ringraziato subito dopo, insomma non è così scontato per un calciatore che magari riceve, ma posso dire non è neanche banale avere no. in squadra uno che ha una mentalità così positiva, chiedere a Lautaro e alla complicità d'amore di Sensi che c'è anche tra lui e Lautaro e all'esplosione di Lautaro, per cui io ritengo che lui abbia almeno lo stesso ruolo che ha avuto Conte, perché secondo me è importantissimo Lukaku per quello che sta facendo Lautaro. Questo l'ho fatto mille volte, poi non è che insomma non è che sono poi divento tipo ultra di Lukaku. A me lui mi è sempre piaciuto perché l'ho seguito in Inghilterra, l'anno scorso sicuramente non ha avuto la sua stagione migliore, però è uno che ha sempre segnato tanto e che l'ho visto ai tempi dell'Everton, insomma è un giocatore che ha sempre fatto segnare i compagni, cioè è un attaccante che oltre ai gol che fa c'è anche qualcuno che si mangia, ma l'anno scorso abbiamo fatto mille volte. È chiaro che se tu sei uno che spende tante energie per la squadra e qualche volta sottoporta magari sei paghi in termini di lucidità, questo ce l'hanno raccontato un milione di volte su un sacco di giocatori che magari non la struscia mai e che poi quindi è più implacabile. C'è il modo di vivere alla Inzaghi o alla Trezeguet, c'è il modo di vivere alla Lukaku in un'altra maniera. Ci sono allenatori che si trovano benissimo con degli attaccanti ai quali non chiedono nessun contributo, alla Icardi tanto per dire. Per fare un altro nome straordinario, Icardi in area di rigore, su questo non c'è discussione, però ecco, proprio una scelta è una scelta di modo di giocare e quindi penso che Conte l'abbia scelto proprio perché vuole questo tipo di strada. Poi sarà vincente, lo vedremo. Vedo che c'è collegato Massimo Zampini, che saluto. Ciao Massimo. Ciao, buon pomeriggio. Perché io allora torniamo al tema comunicazione riguardo a Sarri, più alla sconfitta della Juventus a Napoli che insomma fa il male che fa a una Juve che rimane ancora ampiamente in testa alla classifica. Ebbene, queste due dichiarazioni hanno fatto molto arrabbiare e non capisco perché il popolo della Juventus, quando Sarri dice non mi rode aver perso a Napoli, se proprio dovevo perdere almeno l'ho fatto contro i ragazzi che conosco, cui voglio bene, e a una città che amo, che ho amato, una squadra che amo, che ho amato. E l'altra, quella che trovo invece piena di ironia gradevole, quella, avevo parlato in favore alle squadre con le strisce, ebbene il conto dei rigori quest'anno è 6-6, sei a favore 6 contro, forse è ora di tornare alla vecchia maglia, magari non c'è da sbellicarsi dalle risate, però nemmeno da pigliarsela. Io non capisco il motivo della livore di una certa parte della tifoseria juventina. Massimo. Allora dividiamo le due frasi. Prima frase, quella di cui si è parlato di più, è quella sul diciamo non dispiacere dovendo proprio perdere di farlo a Napoli. E la trovo onesta e perfetta, almeno per come la vedo. Allora, per me, se mi chiedi la frase è giusta, è sbagliata, è grave, assolutamente non c'è nulla di grave, c'è fair play. Lui chiaramente ha spiegato che gli dispiaceva e come avere perso. Vabbè, ci mancherebbe altro. E questo non c'è dubbio, però se poi mi chiedi una frase così fa piacere al tifoso della squadra che ha appena visto la sua squadra praticamente non scendere in campo in una partita molto importante, in una partita sentita dove i rivali non ti amano particolarmente, questo distinguo obiettivamente puoi anche pensarlo dentro di te e tenertelo, però non c'è nulla di grave. Ma se mi chiedi se fa piacere al tifoso juventino, beh no, che faccia piacere, che non faccia no piacere. Però è certamente comprensibile, no, dal punto di vista di Sarri, cioè è stato molto è stato meravigliosamente onesto, cioè, sì, però immaginate se Conte dopo Inter Juve persa dice vabbè non ho perso, certo l'ho fatto contro la Juve in cui fa tutta la mia carriera, cioè all'Inter lo massacrano, ma forse comprensibilmente penso, non lo so. Sì, no, ma secondo me la verità sta nel mezzo, nel senso, allora Sarri ha detto una cosa che secondo me appunto in un'intervista fra qualche anno cioè, non so come dirti, fuori dalla drammatizzazione, che attenzione secondo me è sbagliata, perché sapete insomma poi a me ne può fare di meno, quindi per me è facile parlare, però veramente la drammatizzazione del calcio io faccio fatica a capirla, però conosco i tifosi da tanti anni, so anche che il calcio esiste perché ci sono i tifosi, che il calcio esiste perché c'è la gente che va in trasferta, la gente che spende i soldi, la gente che si prende la pioggia e che vive di calcio 365 giorni all'anno. Però quindi anche costoro riescono, in molti casi riescono a vivere in maniera un po' diversa. Certo, no? Infatti l'obiettivo è quello lì, del tifare in positivo, il giusto mix, il non esagerare con le polemiche, non cercare polemiche ovunque, io sono d'accordissimo. Detto questo, siccome vivo in questo mondo qui e so come funziona, non mi sorprende che qualcuno non abbia apprezzato le parole di Sarri, perché innanzitutto perché comunque Sarri in questo momento non ha ancora agli occhi dei tifosi della Juve la forza che magari avrà, e glielo auguro, fra qualche tempo. Cioè è ancora un allenatore che nel suo primo anno è sì in testa alla classifica, però la squadra non convince del tutto, la Champions sta entrando nel vivo, la Supercoppa l'ha persa, cioè non è non so, Marcello Lippi dopo sì, aver sì, vinto chiaro. Tutto o Antonio Conte dopo però aver vinto anche tutto, leggendo quindi... l'altra frase mi sembra che è chiaro che è un terreno scivoloso, ma mi sembra proprio che l'ironia sia stata bandita da questo pianeta. Sì, però ecco, arriviamo alla seconda frase. Io ti dico, la seconda frase, premesso che ha ragione Pier, perché Sarri, diciamo, il tifoso juventino pensa ancora non ha detto qualcosa di juventino in questi sei mesi, e per me non è necessario, però uh-huh. se poi vai là a dire voglio bene a quello, voglio bene a quell'altro, beh, allora aspettiamo anche qualcosa di juventino. Ma ci ho detto, la seconda secondo me invece è una battuta riuscita male, quindi uh-huh. non grave perché è una battuta, e tu hai detto uh-huh. bene, però riesce male, perché là ti fanno la solita cosa, le strisce sì, a Napoli, sì. c'è un po' stantia pure, sì, appunto sì. in anni in cui non succede nulla, e tu la devi rispondere dicendo scusatemi tanto, io sto qua da sei mesi e non mi pare proprio vedere nulla, e basta, e là la battuta non abbiamo le strisce. Mi sembra di chi è cresciuto comunque in un ambiente in cui queste battute erano una normalità, e oggi gli sembra quasi normale che gliela facciano, e invece bisogna pure rispondere a questi come fa ogni tanto Bonucci o qualcuno di questi dicendo in modo più secco. Però questo è il mio pensiero da tifoso juventino. No, no, ma chiaro, possiamo derubricarla alla voce peccato di ingenuità. È stato certamente ingenuo nel dire quella cosa lì, mentre insomma, sulla prima è stato molto onesto. Un po' lo puoi cambiare, ma non perché ci sia qualcosa di brutto nel cambiare, perché la vita è fatta di una continua evoluzione, quindi in un ambiente nuovo ognuno di noi può tendere a cambiare, però insomma alcune cose se le porta dietro, no? Cioè una certa idea se la porta dietro, una certa idea, un certo modo di essere, no? Poi magari la tuta la puoi sostituire con la giacca e con la cravatta, ma il gusto della battuta in certi momenti ce l'avrà sempre, secondo me. Una non esagerata attenzione all'aspetto comunicativo ce l'avrà sempre. Sì, anzi, pure a Napoli c'erano ogni tanto delle situazioni in cui secondo me non è totalmente cambiato, no? Anzi è diventato quello che non mi aspettavo, Sarri. Però piuttosto volevo chiedere a Massimo se okay, abbiamo detto, ti ricordi quando quella volta sostituì Ronaldo, ebbene Sarri si è preso la Juve, il rispetto degli altri eccetera eccetera. Al di là di questo, adesso stiamo ancora discutendo, i risultati, i punti sono molti meno di quelli di Allegri, e allora il gioco non è brillantissimo, non è una roba da Barcellona di Guardiola, però ci sta lavorando. Ebbene, tu all'inizio della stagione, a fine gennaio, pensavi di essere in mezzo a qualcosa di diverso? No, io speravo di essere così, lo so che vi sembra sempre eccessivo, però a me, se mi dici perché ogni anno, lo sai, non lo ripeto ogni volta, ma ogni anno lo ritengo più difficile, questo in particolare, per le rivali, perché noi cambiavamo allenatore, modo di giocare, un allenatore, come abbiamo detto, che viene anche da un ambiente diverso, quindi i dubbi per me, almeno quello riguardava me, erano e in parte sono ancora abbastanza. E comunque lui, ragazzi, ha vinto credo 23 partite sulle 30 giocate nelle varie competizioni, e prima in campionato, in Champions mi è piaciuta molto la Juve finora, poi vediamo a Lione ovviamente, è tutto un divenire. Però sinceramente io distingo, ecco, come ho detto quello che pensavo delle dichiarazioni, devo dire che in campo io invece sono un po' sorpreso in positivo, perché avevo qualche timore in più sull'ambientamento. Poi se mi dici che vedi una super squadra continua, no, però se sei deluso dai primi mesi di Sarri juventino, ti aspettavi qualcosa di più o di diverso? No, non sono affatto deluso. C'è una cosa che in qualche modo hai detto anche ieri, cioè che non è ancora una squadra completamente continua. Bravo, io non so cosa vedrò. Continua. Non so cosa vedrò domenica. Cioè, è una squadra che alterna delle prestazioni molto convincenti a delle prestazioni molto deludenti. E verissimo, se posso anche permettermi, verissimo, è una squadra che non voglio dire che il trend sia in calo, perché forse non è in calo, però non è nemmeno in decollo. E ti dico la verità, l'altra sera a me la Juve ha deluso, con tutto il merito del Napoli, che va sottolineato, perché il Napoli ha fatto una grande partita, ha fatto una grande settimana il Napoli. No, ma soprattutto se pensi, Pier, ha maggior ragione, questo è confermato dal fatto che la Juventus usciva da una partita di Coppa Italia con la Roma in cui era stata totalmente convincente, o quasi totalmente convincente. Quindi io onestamente pensavo, con tutto il rispetto per il Napoli e della forza del Napoli, che per me rimane la squadra come potenziale, cioè come rosa, per me il Napoli è da Champions League e non cambio idea, però è chiaro che adesso ovviamente sarà praticamente impossibile conquistarla, quindi grande rispetto per il Napoli, però io l'altra sera, per come si erano apparecchiati i risultati, mai avrei pensato a quell'approccio della Juve, cioè vero. La Juve cannibale di questi anni in una situazione come quella, con l'Inter che si fa del male da sola a un quarto d'ora dalla fine, con la Lazio che gioca forse la più brutta partita del campionato, nel derby di Roma ti aspetti una Juve che salta la giugulare dell'avversario e del campionato intero. Ragazzi, continuiamo a parlarne domani con te Pier, di sicuro, con Massimo Zampini a strettissimo giro di posta, perché devo correre a un altro appuntamento mentre lascio voi ai vostri, è un altro appuntamento che ho con Stefano Melocaro ora e poi al Bar Tour più tardi. He was one of the greatest athletes of all time. He inspired myself and many other people around the world. I had that fortune to have a personal relationship with him over the last 10 years, and when I needed some advice and some support, you know, he was there for me. He was my mentor, my friend. It's just heartbreaking to see and to hear what has happened to him and his daughter. It's unbelievable. Questo è Nole Djokovic in Australia. Il tema l'avete sentito, avrete capito, avete decriptato, un inglese molto, molto semplice. Comunque ricordo del suo amico Kobe Bryant. Djokovic, che l'altro giorno ero con un mio amico invece, Saša Djordjević, lui l'ha definito il più grande sportivo serbo ogni epoca, e quella terra di grandi sportivi nel basket, ma non solo, ne ha partoriti molti. Ciao Stefano Melocaro, buongiorno. Ciao Carlo Genta, possiamo essere quasi d'accordo? Sì, certo, non è reato, mi pare. Non è reato. No. Senti, ieri Kyrgios, no. Ieri avevamo appuntamento ieri, no? Poi è successo quel che è successo. La cronaca ci ha sopravanzato, sì. Sì, tra l'altro Kyrgios ieri ha reso omaggio scendendo in campo contro Nadal con la maglietta gialla numero 24. Io ho fatto dei tweet su questa cosa, sono stato ovviamente mal interpretato, devo twittare meno e parlare di più perché si capiscono meglio le cose. Perché io ho grande simpatia per Kyrgios, che pure è un pazzo scatenato, però ieri ha fatto un gesto molto bello, tra l'altro a poche ore dai fatti. E, insomma, ha celebrato Kobe come meglio non si poteva, commuovendosi anche all'ingresso in campo, ma è la stessa cosa che ha fatto oggi Djokovic, anche no, l'intervista di McEnroe. Secondo me McEnroe... Aspetta, ti devo fermare perché questa linea che si sente meravigliosamente non funziona altrettanto bene, almeno oggi sarà il tempo. Comunque, per quanto riguarda gli Australian Open, uno dei grandi temi che adesso affronteremo con Stefano Melocaro sono le sette vite sportive di Rogerio, perché Federer, insomma, ogni volta sembra incastrato nella trappola mortale, tutte le volte, almeno fin qui, è riuscito ad uscirne, ma sei match ball annullati a Sandgren sono davvero qualcosa di sconfinato. E dietro il prossimo angolo degli Australian Open c'è il grande classico dell'erotismo tennistico, cioè Federer Djokovic, ebbene sì, ancora loro, ebbene sì, ancora loro nella fase finale di uno slam, e in tutta onestà non vedo l'ora di vedere questa partita. Vi invito a lanciarci i vostri temi anche via WhatsApp vocale 349 238 6666. Vi ricordo che subito dopo questa chiacchierata, che spero di riuscire a fare con Stefano Melocaro, avremo il Bar Tour Bartoletti e Turrini, sebbene maestro Bartoletti sia impegnatissimo nella tournée della presentazione del suo ultimo almanacco del Festival di Sanremo, oggi a Firenze, e la settimana prossima io già ve lo dico, il Bar Tour non ce l'avremo, o meglio avremo una sola metà del Bar Tour, perché Marino Bartoletti sarà una delle superstar del Festival di Sanremo. Riecco Stefano Melocaro. E abbiamo recuperato con sistemi più tradizionali. Sistemi più classici. Sì, perdonami. Mi stavi dicendo di quel tweet, non ho capito i motivi dei rimbrotti. No, perché io ho twittato che sarà anche un pazzo scatenato, ma ha fatto una gran bella cosa. Parlavamo di Kyrgios ieri con la canotta numero 24 di Kobe. e magari ho esagerato un po' nel descriverlo, ma insomma è quello che di solito si dice di Kyrgios, no? Cioè un pazzo scatenato, sconsiderato, scialacquatore di talento, però ci ha messo tutti d'accordo. Il mio voleva essere un messaggio positivo. Ma sai, sono tempi in cui l'ironia non viene tanto capita. No, infatti, esatto, infatti. Le code di paglia si sprecano. Infatti, volevo dire questo, però volevo dire che Kyrgios a me sta simpatico e avercene di personaggi che agitano il tennis così. Tra l'altro ha fatto una cosa altro molto seria, molto che bella. E oggi si è commosso anche Djokovic dopo il suo quarto di finale vinto, no? Secondo me ha sbagliato, semmai McEnroe possa sbagliare in quanto McEnroe è divino, però ha sbagliato quando sia lui che a Nadal ieri ha fatto la prima domanda su Kobe Bryant, perché se tu fai la prima domanda in pubblico su Kobe e Djokovic si commuove quasi fino alle lacrime, poi dopo è difficile parlare della partita dopo, come sa chiunque sì, faccia questo lavoro. Esatto, è un po' è questo tema, no? Ieri abbiamo fatto la puntata su Kobe Bryant, cosa che rifarei altre mille volte in una situazione così certo. devastante. Poi sai, è difficile fare inversione a U in autostrada, anzi è vietato fare inversione a U in autostrada. Quanto sono felice di essere in semifinale, capito? Non funziona più così. Tra l'altro ti segnalo che oggi pomeriggio, non c'entra niente ma forse c'entra, sono a Rieti a intervistare il primo allenatore di Kobe del mini basket. Perché forse non tutti sanno che, ma Kobe lo diceva sempre, è una delle sue patrie la tua Rieti. Lui venne in Italia perché Joe Bryant fu preso da Rieti nell'84 e giocò 2 anni a Rieti, per cui io ricordo, correggimi se sbaglio, maglia verde sponsor ippodromi d'Italia. Io ho visto segnare a Joe Bryant 65 punti sui 79 totali della sua squadra, mi sembra, in una partita contro Brindisi. E il piccolo Kobe tirava dopo la partita a canestro palle di carta, sai quando finisce la partita, no? Che la gente defluisce, c'era sto piccoletto che era meraviglioso, io me lo ricordo come se fosse oggi, Carlo, perché proprio sai quei ricordi. Noi eravamo pazzi di basket a Rieti, per cui ricordo il piccolo Kobe tirare a canestro con palle fatte di carta. Sì, era detto questo, ancora per inciso, l'emozione è tanta perché era un bambino italiano, infatti è andato a scuola qui in Italia, elementari e medie, quindi il periodo in cui ti formi non alla scuola americana super figa e privata, ma alle scuole statali normali. E quando sono tornati in America, lui e le sorelle avevano problemi non con l'italiano ma con l'americano, non riuscivano a capire bene l'inglese, ok, ma lo slang non tanto bene, e lo prendevano in giro, dicevano oh, va bene, mi prendi in giro, vieni fuori sul campo da basket con me, poi vediamo se mi prendi in giro. E ti dirò, per ricollegarci al tema del tennis che comunque insomma, è presente oggi pomeriggio, che ho visto giocare Kobe a tennis e ci sono anche in giro foto sui social questi giorni, e ovviamente a dimostrazione che il fenomeno è fenomeno praticamente in quasi tutti i campi, Kobe tirava anche un bel rovescio, cioè c'è un bel finale di rovescio proprio a una mano alla Roger Federer, sai, quello bello frustato in alto. Senti, ma invece le mille vite di Rogerio cosa mi dici? Cioè no, 7 match ball annullati a Sandgren, ogni volta sembra complicarsi la vita sempre di più, quasi per riuscire ad uscire incredibilmente dalla tela del ragno. Beh, intanto un'altra partita vinta al quinto, e credo siano 6 o 7 consecutive in Australia vinte al quinto da Federer, credo sia la 6ª consecutiva che lui vince al quinto in Australia. Il tema è quanto ce la fa ancora? No, vabbè, siamo a 38 anni e 6 mesi, una cosa del genere, insomma diventano 39 ad agosto. Ragazzi, non solo vincere, non solo arrivare lì, ma arrivare lì in questo modo con sole maratone, e questo forse è il dettaglio più incredibile. E oggi ha preso anche un warning per verbal abuse, addirittura, cioè, addirittura credo abbia detto una parolaccia, cioè il divino che si trasforma nel suo opposto, capito? L'arcangelo Gabriele che diventa Lucifero, cioè Federer che fa i sognini per qualche minuto. Sarà la terza volta in carriera, credo, terzo cartellino giallo sì, in carriera. No, vabbè, però davvero, cioè, 7 match point annullati. Ecco, l'unica cosa, io rimarcherei l'intervista a fine partita in cui Federer ha detto forse oggi non meritavo di vincere. Questa mi sembra un'affermazione non vera, perché nel tennis, per come ha fatto il punteggio, è molto difficile che tu non meriti di vincere quando hai vinto. Però è un'affermazione di grande umiltà, no? dire forse avrebbe meritato di più, di più lui oggi. Tra l'altro oggi Federer, come spesso gli è successo in carriera, credo sia tipo la sesta, settima volta che vince una partita mettendo a segno in totale meno punti dell'avversario. Sono tutti segni di divino. Poi ovviamente in semifinale con Djokovic parte il favorito, ma questo è un altro ragionamento. Tanto Federer e Djokovic ancora loro al prossimo giro, io dubito che possa vincere ancora al quinto contro Djokovic, che è un atleta mostruoso, ma così, sono impressione, poi tanto con Federer ogni impressione non conta nulla. Sì, io dubito che possa vincere, punto, nel senso che non, probabilmente non vincerà, perché la storia recente di quelle tre delle sfide tra questi due, soprattutto al quinto, dice questo, e perché la statistica, sei pronto, dice che Djokovic non ha mai perso una semifinale a questo livello, cioè se arriva in semifinale lui poi va in finale nello slam, per cui insomma tutto lascerebbe pensare che vincerà Djokovic, però siccome abbiamo detto che Federer è divino, perché solo una divinità annulla 7 match point, magari stavolta tira fuori qualcosa. Allora, prima di salutarti parliamo insieme con Claudio da Parma, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Allora, io ho detto questa cosa lì al centralino. Secondo me Sarri non è l'allenatore della Juventus, ma sta alla Juventus come un adesivo pubblicitario sta appiccicato sul vetro. Mi dà questa impressione. Io sono juventino di terza generazione, quindi tiferò Juve per sempre. Ma la domanda è: che bisogno ha la Juventus di avere l'adesivo Sarri sul parabrezza? Perché non mi sembra che Sarri sia dentro la Juventus come lo era per esempio Max Allegri, almeno a me dava quell'impressione. Sì, io vedo la domanda è sempre quella, in latino, cui prodest? Cioè, perché? Cioè, a chi gioverebbe una cosa così? Perché la Juventus ha bisogno di avere Sarri appiccicato in parabrezza. Però, veda, la vista è piena di progetti che tu firmi a tavolino convinto di riuscire a compenetrarli e a ottenere risultati, e poi dopo le cose vanno diversamente. Io non vorrei mai che loro si fossero trovati su situazioni differenti, perché non mi sembra la Juve dell'anno scorso, non mi sembra che abbia la sicurezza, la certezza. Leggo sui giornali che Sarri a volte, finita la partita, non passa in spogliatoio. Poi non lo so se sia vero o no, ripeto, io sono uno spettatore, non faccio il vostro mestiere. Stefano, che ne pensi? La vostra impressione? Rimando quella di Melocca, la mia più o meno l'ho già detta. Cioè, secondo me, la mia? Certo, devi. Secondo me Sarri, per il tipo di persona che è, per il tipo di personalità che ha, non è dentro la Juventus, così come era comunque neanche troppo dentro il Napoli, anche se poi alla fine negli ultimi tempi lo osannavano parecchio. Perché è così, perché Sarri è Sarri, no? Lo è ovunque vada, non era neanche troppo dentro al Chelsea, non è questione di Juventus. Dopodiché la Juve è evidente che si è un po' complicata la vita da sola, cioè ha invertito la tendenza e improvvisamente si è messa da sola un obiettivo più alto, cioè quello non soltanto di vincere, dove non ha mai avuto problemi, ma di giocare in modo diverso, la convinzione che quel risultato che la Juventus sognano si possa raggiungere solo giocando in un'altra maniera. Sì, questo può essere un'altra lettura, però io continuo a essere sorpreso del modo molto pragmatico, molto pratico e anche un po' diverso in cui Sarri si è approcciato rispetto alla sua personalità a quell'ambiente, a quel mondo. È quasi un po' italiano. Esatto. Ciao Stefano, grazie. Sempre Ciao, Carlo, un piacere. Grazie davvero Stefano Melocchero. Ci fermiamo per la borsa. 800240024 se volete chiamare o se volete mandare WhatsApp 349-238-6666 subito dopo la borsa per Barturo. Io vi ringrazio per la sensibilità. Oggi torno a guardare alle cose belle e quindi che cosa ha fatto Roger Federer. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Io quale sportivo, non conoscendo bene, non essendo della verità neanche un gran tifoso del basket americano, ok? avevo visto più volte quel ragazzo, avevo sentito che era forte, l'ho visto in TV parecchie volte, però niente, che devo dire, vola in cielo e stringi forte la tua bimba, questo sì, mi dispiace, ciao. Dunque, ci sono dei momenti in cui più che aver voglia del Bartur, quella ce l'ho sempre, ne ho proprio fisicamente bisogno. Buongiorno ragazzi, ciao Marino, ciao Leo. Ciao, non so se ti possiamo aiutare oggi, eh. Oltretutto poi ciao. Tu metti l'esecuzione assassina del chiaro di luna da parte proprio di Kobe Bryant, perché è giusto che si sappia che fra le altre cose questo ragazzo è stato anche un ottimo pianista. Se non fosse stato il figlio di Joe Bryant, ma di un musicista, probabilmente oggi... Non dico che sarebbe ancora vivo, però oggi ci delizierebbe con le sue mani meravigliose che ha impiegato per fare altre cose, ma che sapevano accarezzare anche i tasti di un pianoforte. È difficile, sai, oggi essere originali, né lo vogliamo essere, no. Anche se questa esecuzione ci strappa ulteriormente il cuore, assieme certo. A tante cose che abbiamo letto in questi giorni, a tante foto che abbiamo visto, sì, in questi giorni, soprattutto quelle abbracciate alla sua bimba, e non oso immaginare l'ultimo abbraccio, non oso immaginare il loro sguardo. Sai qual è la cosa più struggente? Che non bastasse il fatto che se n'è andato uno dei più grandi campioni dello sport della storia, perché è assimilabile ai Ronaldo, ai Senna, ai Maradona, aiutatemi voi, se n'è andata una persona che ogni ora scopriamo quanto fosse non amica dell'Italia, ma quanto gli fosse amica l'Italia, perché l'hanno conosciuto tutti, perché tutti abbiamo un ricordo di lui, perché lo piangono quattro città italiane che curiosamente presidiano tutta la penisola, da Reggio Calabria, Reggio Emilia, attraverso Rieti e Pistoia. Beh, ci ha fatto un brutto scherzo, Carlo, ci ha fatto veramente un brutto scherzo. Lasciami anche aggiungere, anche se non richiesto, che io ti devo fare i complimenti per ieri. Sono giorni belli per Radio 24 questi qui, perché sappiamo tutti che i dati d'ascolto premiano una radio a cui non posso non essere affezionato, quindi per una milionesima parte c'è anche il mio orgoglio, però ieri hai fatto quello tua, che no? Un grande conduttore e un grande giornalista ha il coraggio di fare. No, vabbè, lascia stare questo che davvero no, ma davvero sì. Ieri non sono rimasto stupito da diversi messaggi che ho ricevuto, me li aspettavo, non che non me li aspettassi, sono qui da molti anni. Però ragazzi, certe volte quando ti scrivono e basta con questo basket, che siete dei provinciali, non interessa a nessuno, parliamo di calcio, oppure quasi fosse una minaccia se non parlate di calcio tra 5 minuti cambio canale, quasi fosse una minaccia, o altre ancora peggiori che mi hanno fatto dubitare del livello di lor signori nella scala evolutiva, probabilmente un gradino sotto i pinguini. Però al di là di tutto questo... Però, sai, quando si dà del provinciale a qualcuno che parla di basket, forse si dimentica la dimensione mondiale del basket, che è leggermente superiore a quella del calcio, quindi di che parliamo? Se anche perdi quel signore dopo 5 minuti, pensa quanti ne recuperi e soprattutto quanto tu possa essere fiero di quello che hai fatto. Leo, ieri mi è venuto in mente Ayrton Senna, ti dico la verità, sì, credo sia lo stesso libro. Volevo sommare tutte queste cose bellissime che state dicendo, un minuscolo frammento di memoria personale, perché giustamente Marino ricordava l'italianità di Kobe, no? Allora, io essendo un modenese, noi a Modena abbiamo la pallavolo, non è che siamo innamorati del basket, ma nel 2008 ero inviato alle Olimpiadi di Pechino in Cina, io ho una figlia che stravedeva per Kobe Bryant, hai capito? Allora, insomma, avevo promesso che sarei andato a vedere la finale del Dream Team, che fu una partita bellissima contro la Spagna, tiratissima, che venne risolta proprio dai numeri di Kobe e di LeBron James. Allora, quando finisce la partita, queste mega star della NBA, che erano felicissimi come bambini, a dimostrazione di come l'Olimpiade poi abbia un fascino straordinario, unico, anche su assi che sono ricchissimi, che hanno una popolarità immensa, ma c'è qualche cosa che poi è il bello dello sport, no? Io vedevo lì che era diventata la partita della vita per Kobe, per LeBron James, eccetera. Insomma, la vincono, finisce, io ero andato a vedere questa partita con un cappellino della Ferrari e quindi poi nell'avviarmi, cioè, verso l'uscita, c'era Bryant che stava rilasciando le interviste alle televisioni americane. Mi è venuta in mente, passavo proprio lì dalla balaustra, questa sua italianità, no? Lui è stato a Reggio Emilia, anche tra le altre cose, e sapevo, me l'avevano raccontato, io non l'ho conosciuto in persone, che lui capiva anche il dialetto emiliano, no? Allora io passo da questo Brauster, lui era oltre col giornalista statunitense che intervistava, e gli ho gridato in dialetto: te un bel fenomeno, che spero non abbia bisogno di traduzione nemmeno per gli ascoltatori di Radio 24, no? E lui ha sentito, ha visto che avevo il cappellino della Ferrari, ha detto: Maranello, forza Ferrari. Ed era un bambino felicissimo perché aveva appena vinto l'Olimpiade. Questo è un ricordo che io mi porto dietro, e aggiungo, visto che tu hai evocato Senna, che non c'è niente da fare, c'è quando il destino in modo diverso, sul lavoro o come nel caso di Kobe per una disgrazia, un incidente di elicottero, ci sottrae qualcuno che ha saputo regalare emozioni a chiunque, al di là della parente, la patente del tifoso, eccetera. Beh, insomma, avvertiamo un senso di perdita, e così ne approfitto per dire che sono anche 50 anni della canzone Emozioni di Battisti e Mogol. Quindi guarda che cosa mi viene in mente parlando di un ex campionissimo della pallacanestro. Sì, sono anche, avrebbe compiuto anche 80 anni Paolo Borsellino, ad esempio, oggi. Marino è molto esperto di ricorrenza. A proposito, so che dopo sarai a Firenze per la presentazione dell'almanacco del Festival di Sanremo. Guarda, per la serie, poi al Festival di Sanremo, e poi quando ti becchiamo? Il giorno dell'ubiquità, ho appena fatto una conferenza stampa di presentazione di una manifestazione che farò l'8 marzo proprio con Mogol a Bologna, per beneficenza, quindi sono molto orgoglioso di farlo. Anche Giulio interverrà naturalmente con tutta la sua generosa naturalezza. Sì, e poi vado a Firenze perché sì, per arrivare a Sanremo io passo da Firenze e poi da Foggia e poi da Roma e poi vado a fai la strada corta, insomma. Leo, chissà quando lo ribecchiamo più, Mario. Martedì, guarda, ti do una notizia. Martedì. Tu prima hai incautamente annunciato che io martedì non ci sarò. Io, a costo di dire ciao a tutti, ascoltare perché Leo è incastrato sulla Pero Cormano, io anche pochi secondi per voi non me li voglio negare. Oltretutto poi non è ancora cominciato il festival martedì a quest'ora. Beh, mi commuove, a me commuove questa... Voi siete la mia famiglia. Questa uscita di Marino Bartoletti. Ma boh, io devo dire però che così magari abbassiamo il livello e ci togliamo anche dalla commozione. Hai volpoc abbassare il livello fra noi. No, io sono un po' infastidito perché ho letto questa notizia che si ricompongono i ricchi e i poveri. Non riesco a farmene una ragione, perché io e Marino Bartoletti, tanti lo ignorano, facevamo parte della formazione originale dei ricchi e poveri. Eravamo in sei, devo dire. Lui già si diluiva dietro a Marino Chiena, come si chiama, quella che torna adesso, no? Ma io sono stato poi... il caso dello scandalo, non ricordi? Ecco, appunto, non volevo turbare i minorenni in ascolto. E quindi mi sarei aspettato che Amadeus, che devo dire sta beccando tutti, avesse proposto anche a me e Marino di salire sul palco, hai capito, per intonare la prima cosa bella che loro cantarono con Nicola Di Bari. Quindi sei seccato. Certamente ammirato in Tolo Tolo di Zalone, e devo dirvi che pochi lo sanno, ma insomma ai cori del cuore uno zingaro, Nicola Di Bari e Nada, ci siamo io e Marino. Se prendete il video seppiato del 1900, adesso Marino vi dirà l'anno, ci riconoscete, lui aveva già un paio di baffi. Con Rodriguez stava... 71, mi raccomando. Bravo, 71, io mi ricordo, Marino, che tu già stavi prendendo appunti per questa prestigiosa edizione dell'almanacco del Festival di Sanremo. Ti stavi mettendo, io ti ma scusa, ma canta, no? Che c'era il passaggio. No, ma mi sto mettendo avanti col lavoro. Da 49 anni fa Marino aveva in mente di pubblicare questo fondamentale volume. Io tra l'altro, nell'interrompervi un secondo solo per il traffico, ho un WhatsApp. Salve, domanda per Bartoletti: cosa ne pensa di Kelly a Sanremo? Poi una considerazione: il male del calcio sono i tifosi. Saluti Paolo. Su questo torniamo, magari, se ne avete voglia, subito dopo il traffico. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Convocati. Ricordo quando morì Sitch, che il capo della Honda bloccò i suoi piloti e non fece correre la gara in Malesia per rispetto al proprio pilota. Bisogna fare così in certi momenti. Davanti alla morte bisogna fermarsi. Sì, questo sì, altro macro tema. Ieri l'abbiamo detto, insomma, si ferma lo spettacolo deve andare avanti. Carlo, posso ricordare che il 29 gennaio del 1995, Carlo, perdonami, sì? Il 29 gennaio del 1995, ricordo la data semplicemente perché precede il giorno del mio compleanno, che quindi sta arrivando, io e Fabio Fazio fermammo quelli che è il calcio quando venne assassinato un tifoso genovano a Marassi ad opera di un assassino milanista, te lo ricorderai, no? Certo. Ecco, facemmo qualcosa che non era mai stato fatto, però lo facemmo e lo sport si fermò. Quel giorno era giusto fare così, altre volte bisogna riflettere, bisogna sempre pensare cosa vorrebbe il campione chiamato in causa. L'ho sentito che lo dicevate ieri, certamente vedere le partite dell'NBA domenica scorsa è stato pesantemente innaturale, ok? Però Kobe avrebbe voluto che giocassero e quindi cerchiamo anche di mettersi nei panni di chi ci ha lasciato, della sua sensibilità. Sì, certo. Se vuoi retrocediamo e sì, abbasso e dico sì, che è vero, nell'almanacco del Festival di Sanremo a cura di Marino Bertoletti e Lucio Mazzi c'è Turrini e dopo Luciana Turina e prima di Bonnie Tyler. Hai capito? Che sei in eccellente compagnia, eh? Io ricordo la prima partecipazione mia di Marino al Festival di Sanremo, che incoraggiavamo Nilla Pizzi, che era molto molto emotiva, no? E quindi dubitavamo che riuscisse a reggere il peso della pressione, ma Marino le disse: Nilla, tu sei una donna meravigliosa, mi ricordi una signora delle Ande lì, quella zia di Carapace, eccetera. E alla fine la Pizzi si fece coraggio, andò, cantò e vinse, ha vinta come l'Edera, vola colomba vola, cioè, no, dai, ha vinta come l'Edera, non ha mai vinto lei, stai attento, eh. Beh, vabbè, sei tu che hai fatto l'almanacco, io faccio apposta, attenzione a quello, attento a quello che dici, la citazione corretta, hai capito, è chiaro, se vado avanti potrei anche dire che vinse Celentano col ragazzo da Via Gluck, che invece arrivo ultimo, e dite chi vinse dell'anno del ragazzo da Via Gluck, chi vinse? Beh, guarda, mi mortifichi, vinse Dio come ti amo con Modugno la cinquetta. Indimenticabile. Devo dire, Marino non si coglie in fallo. Sì. Per avere quasi 100 anni è ancora lucidissimo. Ragazzi, sì, volevo chiedervi una cosa, sempre a proposito di comunicazione, ne ho parlato prima, ma mi interessava la vostra opinione. Quelle uscite dell'amico di Marino, tale Sarri, che dice: vabbè, se devo perdere e perdono questi ragazzi, a me non dispiace. Poco gradita a una certa parte della tifoseria oltranzista bianconera, non capisco perché, però tant'è. O quando dice, con ironia, forse fuori luogo, perché di questi tempi l'ironia non va nemmeno troppo di moda, bisogna stare attenti, manco si parlasse di cure contro certe malattie, e dice: vabbè, forse sarà meglio cambiare maglia perché queste non funzionano bene. Guarda, è chiaro che mi fanno velo la stima e l'amicizia nei confronti di Sarri, inalterate, anzi se possibile aumentate. Premesso questo, quando un allenatore o quando qualsiasi altro personaggio pubblico, essendo se stesso, fa arrabbiare le ali oltranziste dell'una e dell'altra parte, beh, a maggior ragione so con lui, eh? Perché se Dio vuole l'ironia esiste ancora, anzi Sarri l'ha abbondantemente stemperata, esistono ancora i sentimenti. Io ho inutilmente lanciato un messaggio, per la verità colto da molti, ai tifosi, agli amici napoletani: siate voi stessi con la vostra civiltà, con la vostra ironia, ma anche con la capacità di voler bene. Qualcuno l'ha fatto, qualcuno no. Credo di poter dire che quando uno è se stesso e quando si acquista Sarri si compra il kit completo, beh, a maggior ragione merita rispetto. Alcuni dicono, Leo, l'avesse detto certe cose Conte, sarebbe successo, no, un pandemonio. Io, insomma, poi tu Carlo mi conosci molto bene, insomma, io credo che se tutti nella vita, in qualunque settore, citofonando o meno, ci prendessimo un po' meno sul serio, sarebbe meglio, capisci? In qualunque ambito. Adesso Sarri ha fatto una battuta, credo nemmeno offensiva o sgradevole, dicendo: beh, se proprio devo perdere, non mi dispiace che capiti, o mi dispiace meno se capita a Napoli, no? Ma certo, ma mi sembra la cosa più umana, naturale e normale del mondo. veramente c'è questa cattiveria che io non lo so, probabilmente io e Marino siamo troppo anziani. Cioè, davvero, ma ripeto, non dovrebbe essere così difficile, non è questione, perché poi dopo ti dicono, ah, ma la melassa, i buoni sentimenti, ma no, ma qualche volta cercare di sorridere un attimo in più rendersi conto che non è, cioè, ne abbiamo parlato prima, purtroppo, a proposito di Kobe Bryant, cioè i drammi, le tragedie sono altri, non il fatto che un allenatore possa dire, beh, qui ci può anche stare di perdere. Non lo so, cioè vabbè, ragazzi, cioè, se sei umano, hai allenato dei giocatori, hai allenato una squadra a cui hai voluto bene, dici io voglio vincere, voglio batterli, ma questo è sottinteso, è normale, naturale. Se proprio deve andare male, devo perdere una partita in tutto il campionato e perdo a Napoli, è la cosa che mi addolora di meno, non che mi fa piacere, chiaramente, perché insomma a un certo punto bisogna spiegare anche concetti molto ovvi, però io credo che sia, scusa, voglio dire una roba, mi rendo conto che è impossibile, però con il nostro cucchiaino, parafrasando un vecchio detto, dovremmo cercare tutti di provare a svuotare il grande mare del rancore, che poi diventa spesso anche odio. Lo so, l'ho detto prima, è impossibile, non voglio mica fare il personaggio evangelico, ma se non ci proviamo noi, almeno tutti convocati, che è una trasmissione geniale curata dal Tolstoi radiofonico che Carlo Getta, ma chi ci deve provare? Io voglio essere buono con voi. Infatti io non finirò mai di ringraziarvi, perché in questo modo con Amadeus perché non fa cantare Marino a Sanremo, con questo sì, ma non arriva al rancore, capito? Da quello che ho capito, sto festival cantano cani e porci, perché Amadeus non fa cantare Bartoletti. Un sobrio dissenso. Un sobrio dissenso. Strepitoso, hai capito? Ma sì, ma infatti, però, già la promessa di essere con noi martedì prossimo mi fa stare molto più tranquillo, sereno e felice. Grazie ragazzi, vi voglio bene. Ciao Marino Bartoletti, ciao Leo Turrini. Ovviamente grazie a Claudio Schiattone, a Gianmarco Ferronato, ci sentiamo domani alle 2. Credo che ci sia una sola frase che arriva da tutto il mondo. E la frase è: solo rete, Kobe Bryant.